voce che ti scalda, che ti brucia, la voce di chi non ha parlato mai. È un soldato che butta le armi e chiede pace, è come un prigioniero che vuole libertà. È una rivoluzione di giustizia e di amore, è come la pioggia nella siccità. È l'urlo di chi non ha mai avuto voce, non vuole restare nell'oscurità. Vorrei chiedere a colui che governa la pace e la guerra sulla terra tra l'umanità. Quanti anni ancora da passare prima che quest'uomo si possa riposare? Troppo sangue scorre ancora per le strade, troppi uomini ancora incatenati, troppi uomini ancora condannati al ritmo del lavoro e del sudore. Questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sotto vento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. Figlio della mia famiglia, sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa. E tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, sferta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Ottocento, novecento, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, e quante belle barbole, pistoli, fregati e polmoni, quante belle via Loto. Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio, quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi e l'orgoglio. A me, a me, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio. Eine kleine Pinzimonie, wunder Matrimonie, krauten und der Böhlen, und Patellen und der Sellen, Fischen Zanzibar. Und ein Iker klaffen früher vor Schlafen, und der Woche mit der Walze, und die Alka-Selzer für Dimentica. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie! Quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocar, e quante belle bambole e pistoli, e tanti polmoni, quante belle figlie a rotola, e quante belle griglie nel mar. Io li, dono le di bo, io li, dono le di bo, io la dio le di bo. Siccome io sciopero, lo faccio dire a te. Esatto, tu scioperi e lo dico io. L'8 marzo in ogni continente, al grido di non una di meno, sarà sciopero femminista. Interrompiamo ogni attività lavorativa e di cura. No, non ce la faccio. Allora. Prova tutto. Seasons never too late to be on time. You like to intimidate. Fuck up your life, lose all your friends. Fuck up your life, intimidate. Fuck up your life, intimidate. Fuck up your life, intimidate. Go on, intimidate. Fuck up your life, lose all your friends. Fuck up your life, yeah. Fuck up your life, yeah. Fuck off then, okay? Good. Fuck off. Coxo spaziale. Allora, fammelo leggere. No, lo leggi tu, non basta, basta secondo me. Basta, facciamo una volta lo leggi tu, a Coxo okay. Spaziale, oggi sciopera, perché oggi interrompe. Esatto, no. Allora, vado. Dov'è? Dov'è? Era bello, linea 18, via Zanardi. Di pioggia e asfalto, ci naviga dentro il cielo, grigio, bianco, acqua e cielo, ma tu sei una goccia che non cade. Ritarda la mia guarigione come un'ultima frase da terminare. Piccole navi col motore spento aspettano un segno dal faro. Così lontano. Sono Paolo Rassei e sto ascoltando Coxo Spaziale. What's up? How's it going? Do you real cheekbone? She is so dreamy. Like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out. Or Julian Casablanca. She is an epiphany. Verily, just a day. Opens my day. Like she always grew. I feel like affinity. M-A, A-F-A. In all the ways. She's a rage. But she keeps it one on, straight in the shade. She's a breakthrough. It's cold out there. That's nothing new. But she keeps it one on, straight in the shade. She's a breakthrough. She is so wild. Middle earth, highbrow. Her line is Pablo. But her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, virally, Christy, opens my days like she always knew. I feel an affinity, M-A-A-A. Oggi interrompiamo ogni attività lavorativa di cura formale o informale, gratuita o retribuita. Portiamo lo sciopero sui posti di lavoro e nelle case, nelle scuole, nelle università, non si può sentire. E anche dentro a Coxo Spaziale. Vabbè, no, allora, l'avevi detto così bene prima in diretta. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare

separate. Do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that damn the lonely Thursday years ago. Coxo spaziale sciopera. Anche Stefano, anche se non è una donna, forse. Ma non c'entra, è uno sciopero femminista, non bisogna essere una donna per essere femministi. Cade pioggia e cade neve, non ho più la mia virtù. Cosa importa quel bambino alla finestra? Il dolore della gente non riguarda la mia età. Chiudo gli occhi ed ogni giorno è sempre festa. Anna è morta e Mario non c'è più. Non hanno più parole. Le canzoni che scrivevo non le riconosco più. Sono l'ombra di un fantasma che cammina. Ma Suzanne mi dà la mano come prima. Ho dormito troppo a lungo, la montagna era stregata da un poeta che suonava il pianoforte. Ho sognato le mie mani che sparivano nel buio mentre Dio me le stringeva un po' più forte. Quattro porte, quattro verità, e ognuna sorrideva. E un palazzo di granito con un uomo che gridava e la luna che sembrava una patata. Ma Suzanne non l'ho dimenticata. E Marianna camminava con il sole nei capelli, aggrappata a un paradiso di stagnola. Ogni uomo che passava ne toccava la sorgente, ma lasciava la sua anima da sola. E la strada divideva due esistenze parallele, l'orizzonte ne copriva la realtà. E Marianna non sapeva cosa fosse veramente quel diamante che stringeva nella mano, mentre il sole la seguiva da lontano. Cade pioggia e cade neve, chi ha guardato le mie carte sa che forse la mia vita è già decisa. Lilli greco non capisce, ma che Dio lo benedica, fra un bicchiere e una bistecca mi diverto. Quattro porte, quattro verità, e ognuna sorrideva. E un palazzo di granito con un uomo che scriveva, e la luna che sembrava una patata. Ma Suzanne non l'ho dimenticata. Questo non lo trasmetti, però. Questo non lo trasmetto. Perché è un po' troppo accaffiata. Sì. Sento fuori personaggio. Non mi puoi coxiare sul femminismo. L'8 marzo, infatti, hai ragione, è veramente maschilista sta cosa. Oggi cox spaziale sciopera. Oggi no. No, коли цих зараз так жарко, мама не хвилюйся, я вже їду. Думаю, що я брехун, неправда. Насправді це кохання не помітив. Шампанське розпивав, воно лежало там. До телевізора, там знову Джекі Чан. Кальян дим навкруги, і знов питаєш ти. Скажи мені, що стало, що сталося? Чому так дивно все відбувається? Немає в мене часу, щоб тобі все зараз знову пояснити. Складно залишати світі, де втрачаєш гордість знову кожен день. Скажи мені, справа гроша, думаєш, як маю. Скажи мені, ти сумуєш, чи головне? Хочеш лише гроші, гроші. Навіщо тобі гроші, гроші? Тобі я не цікавий, знаю. Як справи ти питала у мене щодня? Це наче постріл в груди, це зрада була. Забери ти свою благодійність, ти брешеш і усі це добре знають. Скажи мені, що стало, що сталося? Чому так дивно все відбувається? Немає в мене часу, щоб тобі все зараз знову пояснити. Складно залишати світі, де втрачаєш гордість знову кожен день. Скажи мені, справа гроша, думаєш, я їх маю. Скажи мені, ти сумуєш, чи головне? Ти хочеш лише гроші, гроші. Навіщо тобі гроші, гроші? Тобі я не цікавий, знаю. Як справи ти питала у мене щодня? Це наче постріл в груди, це зрада була. Oggi cox spaziale sciopera. Perché è l'8 marzo? No. Sì. Sì. Soprattutto perché è l'8 marzo e dunque si sciopera globalmente. Doesn't know what I'm talking about. Who's never left home, who's never struck out to find a dream and a life of their own. A place in the clouds, a foundation of storm. Many precede and many will follow. A young girl's dreams no longer hollow. It takes the shape of a place out west, but what it holds for her, she hasn't yet guessed. She needs wide open spaces, room to make a big mistake. She needs new faces. She knows the highest. Traveled this road as a child, wide-eyed and grinning, she never tired. But now she won't be coming back with the rest. If these are lives left, folks drive away. Her dad yells, check the oil. Mom stares out the window and says, I'm leaving my girl. She said it didn't seem like that long ago when she stood there and let her own folks know she needed wide open spaces, room to make a big mistake. She needs new faces. She knows the high stakes. She knows the high stakes. She knows the high. Sono Paola Stey e anch'io ascolto Coxo Spaziale. A poison heart.

hold your hand. Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your friend, just smile at the sound. Sleek as a sheet, spinning round and round. Always take a big bite, such a gorgeous sight to see you. Giochiamo con la palla e non con la catena. Sono 10 stagioni che ti amo ed una in più che sono rimasto senza di te. Hai detto non ti comporti davvero uomo, se stiamo insieme deve esserci un cliché. Bene, bene, bene, bene. C'è chi parte, c'è chi resta. Pepe, vere, vere, pepe. Vere, vere, vere, pepe, pepe. In due amore, in tre è una festa. Sono 13 notti che ti sogno. Che se ero americano portavi sfortuna. Ma troppe armi al supermarket, troppi controlli alla dogana per uno che si fa esplodere il senno sulla luna. Ma non sai che bello che era quel sogno di un mondo dal disordine pulito, senza venditori e preti, esattori ed esegeti, o stupidi convinti di aver capito la formula dell'amplesso, il mostro dietro al successo, le sette piccole differenze fra cattivi e buoni. Ma tutti che fanno davvero le cose, nessuno che le spiega. Più canzoni, meno rompicoglioni. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. E c'è chi è pazza, c'è chi è sana. Io ti amo, ma tu sei vegana. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. E c'è chi è rosso, c'è chi è verde. Pepe, pepe, pepe, pepe. Nella vita ho tifato sempre per chi perde. Spaziale non l'ascolterò mai.